Oh oh, boombox, sono il primogenito, mi sono montato la testa. Ok, ok. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Abituato a sbattermene delle tue chiacchiere, porto alle strette come in un parcheggio stretto sette macchine, mi sento a di notte hai detto che mi spacchi te, ma sappi che il mio dossier è aperto in attesa di macchie. Sbagli se mi credi un tirocinante, c'ho un tiro gigante, ancora un tiro, poi basta con le canne. Se sto in panne su montagne come un highlander, rapper fly down under, sotto le mie palle nel mazzo sono l'asso, il tasso alcolico alto, in assoluto il passo corto, se non passo scasso. La mia materia è prima, quindi materia di plagio. Fra adagio, che non ti seguono più adagio. Ok, ho fatto quartine pulite per metterti a tuo agio, chiuso cartine infinite come un randagio. Vorrei cantare come Biagio, ma piace un sacco, sono un MC pacco, bomba boom box, frega un cazzo. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mia madre per farmi uscire ha fatto quattro parti, il nuovo ragazzo della mia ex l'ho fatto in quattro parti. Non penso neanche ai cantanti tipo Jesse McCartney, da queste parti sono il meglio sopra i quattro quarti. Adesso se mi vuoi è tardi, però so di è tardi. Mi porto avanti col lavoro ma non guardo gli altri, mi fisso su una sola cosa, c'ho la testa come i sardi. Non vado più a scuola perché mi sveglio troppo tardi. Facciamo il boom bastardi, anche se non prometto a tutti i miei amici falsi che han chiesto scusa al rispetto. Sono pieno zeppo dei fake MC senza tetto. È già successo che per far successo fanno i poveri del ghetto. Secco, è pieno di gente che non approva il mio progetto. È pieno il mondo di ragazze che ho portato a letto. Ho un problema da pazzo, cosa penso l'ho già detto. Così se stai davanti al mio cazzo sai cosa mi aspetto. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Sono in seno al rap, non vado a genio, voglio meno emo, voglio meno gente, perdi tempo almeno quando bevo. Timbro di voce che fa spavento, inciso sul mio inciso a tempo, quando incido nello studio ci sto troppo dentro. Ho un motivo di vanto per i presenti ai miei eventi, senti MC spessi messi qua fosse sano pessimi elementi. Se chiedi di sonni sono pieno di sentimenti, bella se ti siedi sul mio cazzo se non sentimenti. Mi sono montato la testa adesso ho perso i sensi, avessi i soldi che c'hai tu ci pensi che complessi, tu ti complessi io lessi ci complessi. Pezzo da 90, alto una spanna più di Leo Messi, l'MC in antitesi per chi dice che ci siamo arresi. Pesi questi versi come pesi in palestra per mesi, desideri un superman per me una superman, dai piemontesi ho imparato due cose, super bala. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mi sono montato la testa, ad ogni festa mi spaccio per il festeggiato. Mi sono montato la testa, a ogni richiesta dico di essere già impegnato. Mi sono montato la testa. Che cazzo è? Stoppa. Minchia il telefono. Cazzo è che mi chiama adesso? Pronto? Salve, sono Franco Rossi della rivista Giovani Oggi. Parlo con il rapper Sonny Primogenito. Sì, sono io, dica. Volevo proporle un'intervista per il nostro giornale. E sì, ok. No. Non mi interessa, grazie. Tra i giovani non mi interessa, grazie. Sono già impegnato.